Brain flow dead and away. In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato. Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita. Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti. Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che viviseziona lo sfruttamento. Allora, quando sono le 21:15, ebbene sì. Abbiamo portato tutto il miglior champagne francese, il miglior champagne. Comunque siamo nel caos più totale perché stiamo impazzendo, legati da fili, cavi, microfoni che non funzionano, cuffie e via dicendo. Diciamo che non ci eravamo resi conto che era cominciata la trasmissione, perché questo orario nuovo ancora non siamo abituati. Come potete vedere, abbiamo cominciato alle 21:15. Quindi per tenervi ancora più attenti ai nostri approfondimenti. Sì, appunto, quella che la settimana scorsa sentivate dalle 22 alle 23, questa settimana la sentite dalle 22, dalle 21 alle 22, e così sarà per i mesi a venire. Magari piano piano per gli anni a venire, ma no, magari appunto riusciamo a scalare la classifica e poi mano a mano andiamo dalle 20 alle 21, dalle 19 alle 20, dalle 18 alle 19 e poi arriviamo alle 7 di mattina fino si sentirà comunque fino andando all'indietro a fare anche dalle 11 alle 2, cioè dalle 23 alle 24 e poi dalle 22 alle 23, come va quando bene, abbiamo va bene, basta così per favore. Vabbè, insomma, ma di che parliamo stasera? Perché tu dici così perché sei arrivato ora, noi sono ore che parliamo. Io dico così perché voi la puntata di stasera l'avete organizzata voi, e quindi diteci un po' di che si parla stasera. Io qui sono ospite stasera. Sì, certo. Vabbè, questa sera saremo in collegamento con un attivista che ci racconta com'è andato l'incontro che si è tenuto a Cesena ieri. E dopodiché abbiamo vari eventuali appuntamenti, notizie e quant'altro, e continueremo così la trasmissione. Un ricco gioca a premi e ricette di cucina. No, magari ricette di cucina come un tempo. Poi abbiamo smesso questa pratica. Beh, la riprenderemo anche questa nel nuovo palinsesto della trasmissione che stiamo organizzando, ecco. Vabbè, va anche detto che le ricette di cucina che davamo erano tutti i ricicli de Mocio che scroccava da qualche parte. Le ricette, vedeva di ricette cucina de Benedetta Parodi e mandava mi dispiace ricette. Che tu dica questo, ma le ricette di cucina che abbiamo dato erano sempre ricette di alta cucina prese dai migliori chef. Ecco, ci telefonano pure, metto una canzone e vediamo un pochino chi è. It kills me not to know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were, and her scars or how she got them. As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping through the valleys of an aging face that this world has forgotten. Seconds, but seldom to these walls ring true, and I'm constantly failing you. summoner of nothing in particular. Allora, eccoci, scusate la lunga attesa musicale, ma insomma abbiamo avuto un'altra telefonata e ci sembrava giusto parlare anche con questa persona. Allora, siamo in diretta con un attivista che ha partecipato all'incontro che c'è stato ieri a Cesena, un incontro che ricordiamo è avvenuto come si dice, come seguito dell'incontro di Liberazione Animale che si è svolto a settembre, appunto perché c'era la voglia di rivedersi, rincontrarsi e discutere ancora su come andare avanti, anche su magari anche quella che è stata un po' una carenza dell'incontro, che è stata un po' l'inconclusività su certi argomenti. E quindi diciamo ben venga questo secondo incontro che c'è stato. Raccontaci un po' quello che è successo, com'è andata, cosa avete fatto, di che avete parlato, insomma. Beh sì, c'è stata inizialmente, l'incontro era stato chiamato per una richiesta di parlare appunto dei temi che si erano sviluppati durante l'incontro a settembre e in particolare di riparlare di varie questioni un po' critiche che erano venute fuori. Quindi questo è stato uno dei temi diciamo più importanti, però si è anche speso abbastanza per altre questioni. Una è una cosa a cui si tiene molto, che è la produzione di un dossier con delle trascrizioni di dei dibattiti che ci sono stati all'incontro, che erano stati registrati in audio, e appunto adesso stiamo lavorando perché questo materiale possa uscire nel giro di un mese o due, di modo da poi lasciare un documento cartaceo anche scaricabile per appunto chi volesse riprendere un po' i discorsi che sono stati fatti all'incontro. C'è stato anche un momento in cui abbiamo parlato di varie proposte del movimento animalista radicale in Italia, in particolare abbiamo parlato parecchio su la proposta di iniziare una campagna sulla caccia in un'ottica un po' diversa dalle varie campagne che sono state sempre fatte anche da associazioni su questo tema, insomma. Ok. Senti, diciamo è stato un incontro partecipato, c'erano più o meno le persone che erano venute all'incontro di Liberazione Animale, sono rivenute? No, da questo punto di vista non c'è da essere troppo soddisfatti, nel senso che la partecipazione è stata limitata poco oltre gli organizzatori dell'incontro, non sappiamo se per una questione appunto di scarsa divulgazione o per altro, però sta di fatto che molte anche delle persone direttamente interessate nei dibattiti che poi avevano manifestato anche la necessità di continuare a sviluppare certi discorsi, poi in realtà non sono non sono poi venute a questa iniziativa. Comunque presto proveremo a farne altre, sempre per proseguire questi discorsi, sperando che appunto si riesca ad avere una maggiore partecipazione. E, appunto, dicevi che uno dei temi che è stato trattato è stato questo di creare questo dossier sulla caccia. Ci vuoi spiegare un po' meglio quali sono un po' le linee guida, diciamo, che vi siete dati per questo dossier? Qual è l'approccio che volete portare avanti? Sì, no, allora forse non mi sono spiegato. Abbiamo due progetti distinti. Uno è la creazione di un dossier che praticamente sarà un resoconto dell'incontro di Liberazione Animale che si è svolto a settembre ed è fatto da trascrizioni di dialoghi che sono stati registrati. Poi si è parlato anche di un progetto, diciamo, per riprendere un po' in mano il movimento animalista radicale in Italia, e si è provato a proporre come tema la caccia, anche se con riserva appunto di parlare anche di altri temi nei prossimi incontri che si faranno. L'idea, appunto, si è scelto questo tema perché permette una diffusione molto capillare degli attivisti sul territorio, in quanto è un qualcosa che può essere portato in manifestazione dappertutto, in tutto il territorio nazionale. Ci sono obiettivi di vario genere, sia nelle città che anche nei centri più piccoli, nelle campagne, e l'approccio che si voleva dare su questo tema era, dicevo, sensibilmente diverso da quello che è stato l'approccio delle associazioni fino ad oggi, nel senso che ci si è sempre incentrati molto sulla caccia come evento sportivo, mentre vorremmo dargli un taglio un po' più antispecista, nel senso della caccia, di critica alla caccia come strumento di gestione degli animali e dei vari aspetti che questo implica a livello proprio antispecista. Tra l'altro, su questo argomento uno spunto in più potrebbe essere anche l'osservazione del fatto che la caccia è un mercato di riserva abbastanza ampio delle industrie produttrici di armi, di tutto il settore produttore di armi, no? Basti pensare a Brescia, per esempio, con la fiera, mi sembra si chiamava Exa, una cosa del genere, dove che era la fiera delle armi, dove queste grandi industrie che producono anche armi pesanti trovano la loro vetrina, no? Sì, sono gli stessi produttori che riforniscono poi polizia ed eserciti e diciamo sfogano in tempi di pace il loro business anche sulla vendita di armi da divertimento, come dicono loro. E comunque abbiamo deciso per questo tema appunto perché ha vari spunti, anche se molti non sono mai stati trattati dalle associazioni che fino adesso se ne sono occupati, o comunque in maniera molto marginale. Per esempio è venuto fuori anche il discorso sempre riguardo la gestione che viene fatta dall'uomo sulle altre specie, il discorso delle specie considerate in sovrannumero, che nelle città può voler dire una riflessione ad esempio la derattizzazione, e in campagna può voler dire sulla caccia di selezione a quelle specie considerate nocive come il cinghiale o il cervo, insomma vari altri animali. Sì, anche noi in realtà abbiamo dedicato delle trasmissioni anche a denunciare appunto caccia che veniva fatta dallo stesso corpo del, adesso non mi ricordo qual era l'organo di competenza dello Stato, comunque in cui venivano massacrati esemplari soprattutto di cervi, o comunque adesso non ricordo quali altre specie, comunque di sesso femminile oppure di cuccioli, appunto per questa scusa del sovrannumero, per, come dici tu, addomesticare e tenere sotto controllo la fauna, e quindi decidere quante specie quali specie possono circolare sul territorio e in quale numero. E oltre a questo, se vuoi aggiungere qualcosa? No, volevo dire che appunto adesso noi abbiamo, per praticità, l'abbiamo chiamata una cosa sulla caccia. Però effettivamente durante la discussione sono venuti fuori tanti temi che riguardano appunto la gestione diciamo in maniera un po' più superficiale dell'umano sugli altri animali, ma poi sono venuti fuori anche discorsi di gestione dell'autorità su chi invece l'autorità non ce l'ha, e si è parlato anche di rapporti di immigrazione con i vari parallelismi che vengono fatti molto spesso con specie animali considerate in sovrannumero o dannose, e invece gli immigrati che vengono in Italia e in Europa per fuggire da luoghi disagiati o comunque in cui non possono condurre una vita tranquilla, e vengono spesso paragonati ai topi, per esempio, e quindi diciamo c'è un legame potenziale anche con vari altri temi sempre di carattere libertario. Sì, poi per fare un attimo un passo indietro e tornare a parlare di caccia, un po' il cortocircuito, il paradosso logico è che molti degli animali che vengono ritenuti in sovrannumero nocivi, per esempio il caso dei conigli ungheresi, dei cinghiali ungheresi, sono animali che sono stati, non sono autoctoni italiani, ma sono animali che sono stati importati dall'estero proprio dai cacciatori per diversificare il loro divertimento in un habitat non pronto ad accoglierli. Hanno chiaramente prodotto dei disastri ecologici, ma per colpa dello stesso mondo venatorio, che poi una volta che li importa, anziché poi farli pagare i danni che fanno questi animali, addirittura li si dà spazio con l'idea di permettere loro di ucciderli. E questa è un po' la nostra esperienza sul campo, anche sull'isola del Giglio, per esempio, un'isola che è piena di conigli che sono stati importati dai cacciatori, perché sulle isole i conigli praticamente non esistono, e adesso quest'isola è piena di conigli e viene praticata la caccia sia selettiva sia anche con trappole, quindi bracconaggio. Trappole illegale. Sì, c'è una proliferazione notevole di alcune specie appunto alloctone, cioè non autoctone del nostro territorio, e soprattutto secondo me il discorso molto interessante che sta dietro una logica di antagonismo sulla caccia di gestione sta proprio nella potenziale critica alle attività umane che dipendono da questa gestione faunistica del territorio, perché se venisse a meno il controllo sulle specie selvatiche l'unica diciamo chiave di equilibrio sarebbe la reintroduzione del predatore naturale, e questo non è una cosa che il nostro sistema può tollerare, perché ha bisogno costantemente di fagocitare territori diciamo selvatici o pseudotali per appunto la propria espansione urbana o agricola. E quindi la messa in discussione della caccia di contenimento, di selezione di alcune specie, è proprio una messa in discussione dell'antropocentrismo nella sua diciamo maniera più anche inaspettata, nel senso che considerare anche l'agricoltura, anche l'espansionismo urbano come un qualche cosa che va a nuocere su animali che vivono più o meno allo stato libero, insomma. Che poi aggiungo, rispetto a quello che hai detto, che è assolutamente condivisibile in particolar modo riguardo all'espansione urbana, riguardo all'agricoltura industriale e via dicendo, quando parlavi di introduzione di predatori naturali, che sono fondamentalmente due, cioè la volpe e il lupo, guarda caso sono due animali che proprio in quanto predatori sono osteggiati da altre categorie, in particolar modo da altre categorie di sfruttatori di animali, quindi allevatori nel caso delle volpi, piccoli allevatori, cioè di pollame o di conigli nel caso delle volpi, pastori nel caso dei lupi. Sì, e c'è moltissimo anche un antagonismo nei confronti dei cacciatori, intanto è che molte specie di predatori, come ad esempio la lontra, sono state proprio sterminate da cacciatori e pescatori perché ne vedevano un antagonista nelle loro attività venatorie, quindi proprio c'è una sorta di dichiarazione di questa sostituzione dell'uomo al vertice della catena alimentare naturale, insomma. Invece, scusa che adesso cambio un attimo argomento, però mi interessava anche capire quali erano stati gli altri temi di dibattito, perché appunto hai parlato prima di questo dossier, perché sicuramente sono usciti fuori tantissimi temi, così se puoi darci un'anticipazione quali sono stati i temi che sono usciti nel corso di questo incontro e quali volete approfondire nei prossimi incontri che ci saranno. Allora, il dossier è molto facile da spiegare perché può essere diciamo sintetizzato nel programma dell'incontro, che è stato un documento che è uscito anche pubblicamente su vari siti di informazione animalista o libertaria, e appunto come vi dicevo è una trascrizione dei dibattiti, quindi ritroviamo tutti i temi che sono stati trattati all'incontro di Liberazione Animale. I dibattiti ovviamente non sono una riproduzione pari pari, anche per una questione logistica di spazio, sono una sintesi, e quindi vengono eliminate tutte le varie ripetizioni o gli interventi che non hanno poi finalità diciamo nel discorso, però comunque cercando di non manipolare i contenuti, di mantenere comunque una rappresentazione più fedele possibile di quello che è stato. Questo viene fatto per tutti i workshop che sono stati presenti all'incontro, dove c'è una prima parte introduttiva di un relatore che aveva preparato l'argomento per introdurlo, e successivamente una fase di dibattito aperto con tutti i partecipanti. E tra l'altro quest'anno c'è stata un'ottima partecipazione da parte del pubblico, ed è stata una cosa, diciamo, anche molto positiva anche rispetto agli anni scorsi, perché si è un po' scardinato quell'abitudine un po' brutta che rimangono sempre solo le solite persone a parlare, mentre molti invece fanno solo da spettatori. Invece quest'anno si è avuta una partecipazione diciamo molto più variegata, dove tante persone diverse hanno preso parte a discussioni. Questo viene un po' riportato in questo dossier, e quindi i temi sono, appunto, come dicevo prima, quelli che si possono vedere nel programma dell'incontro di Liberazione Animale. Va bene, senti, noi ti ringraziamo per il contributo e volevo sapere un paio di cose. Innanzitutto, se c'è già un'altra data, o comunque se c'è un altro momento, insomma, se è stato fissato un altro appuntamento. Sì, diciamo che stiamo pensando mi pare il 20 di dicembre per un prossimo incontro di questo appunto di questa diciamo riunione allargata, però non sono del tutto sicuro, quindi non lo prendete come una data vera, ma aspettate che uscirà comunque presto un resoconto di questa giornata e un appello a un nuovo incontro. Adesso proprio non ero pronto su questa domanda, quindi non sono sicuro di aver detto la data corretta. Va bene, neanche le altre comunque, te le avevamo comunicate comunque. Sì, infatti, quindi appunto non sono sicuro, però appunto di sicuro ci sarà a breve, diciamo, un nuovo momento di sia di dibattito sui temi che sono stati trattati all'incontro e quelli che si sono poi sviluppati in questa riunione, ma anche si andrà sempre più delineando la preparazione del prossimo incontro di Liberazione Animale, che è anche il decennale dalla prima edizione, che è stata fatta nel 2004, e quindi volevamo dargli appunto un po' di peso quest'anno. Riferimenti a internet per appunto vedere il programma dell'incontro, piuttosto che i prossimi appuntamenti per rimanere aggiornati, oppure i riferimenti email per chi volesse scrivervi? Beh, allora lo strumento che viene usato con maggior puntualità è sempre informazione per quanto riguarda le comunicazioni, anche se esiste un sito dell'incontro che è incontroliberazioneanimale.tk. No, non è più quello. Mi sembra che è .org. Sì, insomma, e poi c'è un reindirizzamento. Perché ha cambiato indirizzo quest'anno e quindi ho ancora quello vecchio. Comunque, cercando Incontro di Liberazione Animale si trova il sito ufficiale dell'incontro, e lì c'è ancora qualche aggiornamento, anche se non tantissimi. Comunque c'è la possibilità di iscriversi alla newsletter, e lì invece vengono mandate tutte le notizie relative alle varie riunioni che vengono fatte. Va bene, allora, se non hai nient'altro da aggiungere, ti ringraziamo per il contributo e ci salutiamo. Grazie a voi, buona serata. Dai, alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao. Allora, mettiamo una canzone e continuiamo con la trasmissione. Thank you. Allora, ritorniamo in diretta con prima di parlare, diciamo, del tema caldo della serata, che non ve lo anticipo. La notizia, vabbè, no, abbiamo una notizia abbastanza calda, insomma, ecco. No, non è vero, sì. Vi leggiamo un'altra notizia dal tema abbastanza inquietante. Ecco, scusate il mio italiano, vengo criticato qui dai miei colleghi di redazione perché non so parlare italiano, però speriamo che ci capiamo. Allora, il 7 novembre l'American Motorola ha depositato una richiesta per un tatuaggio elettronico che si connette a dispositivi mobili, definito genericamente Coupling an Electronic Skin Tattoo to a Mobile Communication Device. Si tratta di un oggetto non ben precisato che funge da microfono, prendendo i suoni direttamente dalla gola. Adesso non vi leggo tutto quanto l'articolo, ma vi faccio un riassunto e poi comunque lo potete trovare su internet ovunque. E non è un progetto isolato, insomma, questo fa parte, è la ricerca delle biotecnologie di oggi, è questo, far diventare l'uomo un cyborg. In pratica si tratta di un tatuaggio di circuiti stampati che si innesta direttamente sulla gola o sul polso delle persone ed è in grado innanzitutto di funzionare come microfono Bluetooth wireless, dopodiché fa anche un'altra serie di cose, cioè mette in connettività, diciamo, appunto, l'essere umano con le macchine ed ha la funzione di può avere varie funzioni, appunto, stabilire qual è la temperatura del corpo, leggere la pressione, eccetera, e può anche capire se diciamo la verità o diciamo le bugie. Adesso, al di là del fatto che comunque qualcuno può dire mi rimane comodo avere un microfono nella gola perché così non devo più portarmi l'auricolare, non lo so, comunque è una visione abbastanza triste della realtà. Quello che emerge sicuramente da questa nuova invenzione, tra virgolette, è che comunque le chiacchiere stanno a zero per quanto riguarda quello che è il controllo sociale derivanti dalle biotecnologie e dalla tecnologia in generale. E direi che questo, appunto, non lo so, io credo che siamo a livelli da Grande Fratello, nel senso, nel momento in cui saremo tutti quanti costretti a portare un microchip addosso, come già viene fatto con gli animali, un esempio sono i cani che già sono stati dotati di microchip, noi abbiamo ancora più le carte d'identità, sono di carta, però magari in un secondo momento verremo marchiati non più a fuoco con dei numeri come viene fatto dai nazisti nei lager, ma con dei microchip con i quali saranno in grado anche di controllare se diciamo una bugia o la verità. E vabbè, così era giusto per renderci conto di quello che è il quadro attuale della ricerca scientifica. E poi, appunto, adesso arriviamo al tema caldo. Il tema caldo, vai, leggi tu, chiaramente, perché come sai io sono analfabeta. Comunque è andata meglio di quanto temevamo alla fine, perché insomma più o meno si è capito quello che voleva dire, no? Ma più o meno, sì. Io non te lo apro il microfono, ripeti quello che hai detto. Comunque, se mi metti la finestra è giusta, io riesco a leggerla, se no è impossibile. Mi sposto anche di micro. Allora, leggiamo dal sito internet romagnanoi.it. Ravenna, nella notte tra venerdì e sabato. Aspetta un attimo, giusto per chiarire, il sito di un giornale, non è che... Sì, no, non è, insomma, Raul Casadei. Nella notte tra venerdì e sabato a San Marco, in provincia di Ravenna, un blitz degli animalisti ha portato alla liberazione di 2000 visoni che si trovavano in un allevamento di animali da pelliccia. Non è specificato il nome, chiaramente, dell'allevamento. La cosa interessante, però, quindi a fronte di questa notizia positiva che ha portato alla liberazione, tra l'altro c'è una discordanza perché il titolo dell'articolo parla di 1000 visoni, il testo dell'articolo ne parla di 2000, vabbè. La cosa interessante, però, è che leggiamo: controllato si schiera anche l'EMPA, che pur conducendo da anni battaglie contro l'uso di pellicce, disapprova quanto accaduto. Poi c'è il virgolettato dell'EMPA: pur non condividendo la legge, dobbiamo accettare e pertanto dissociarci da iniziative come quella avvenuta a San Marco. L'EMPA continua a parlare e scrive e dice, e viene poi riportato, il blitz va condannato perché arreca agli animali una grave di sofferenza. I soggetti che non saranno ripresi o non finiranno schiacciati o feriti dagli autoveicoli termineranno la loro misera esistenza tra indubbie sofferenze. I visoni d'allevamento nati e cresciuti in cattività non sono in grado di procurarsi il cibo e tantomeno il bere, se non negli appositi abbeveratoi. In passato altri colpi di mano simili sono stati compiuti e sempre con risultati drammatici per le bestiole. Vorremmo a conclusione che questo accadimento inducesse almeno le persone più sensibili a non acquistare mai più una pelliccia, frutto di crudeltà, dolore e ottusa vanità. Mi scuso per la parte finale, ma c'è una un uso della punteggiatura abbastanza disinvolta, diciamo così, all'interno dell'articolo. Che cos'è contro i giornalisti di Romagna Mia? Comunque no, quello che ci interessava un po' discutere un attimo sono le dichiarazioni dell'EMPA, che sono abbastanza senza parole, nel senso che innanzitutto ricordiamo che l'EMPA già di questi trascorsi nel 2002, quindi più di 10 anni fa, quando vennero liberati circa 100 cani beagle dall'allevamento Morini, che era un allevamento in Emilia Romagna che produceva cani, conigli e roditori per i laboratori di vivisezione, l'EMPA non soltanto si dissociò dalla liberazione, ma addirittura giunse a mettere una taglia sulla liberazione e offrire un compenso in denaro a chiunque offrisse informazioni sulla sorte di questi cani, quindi insomma, diciamo così, a chiunque facesse la spia. Ma soprattutto le dichiarazioni dell'EMPA, al di là che sono condannabili da un punto di vista morale, ma anche da un punto di vista logico, perché dire che quegli animali sono destinati a morire non ha pressoché alcun senso, perché quegli animali sarebbero comunque morti ugualmente, sicuramente, all'interno dell'allevamento. Le dichiarazioni dell'EMPA sono farneticanti, anche sbagliate da un punto di vista di contenuto, anche dal punto di vista scientifico, perché esistono numerose pubblicazioni, per esempio ce n'è una molto famosa del National Geographic, di cui adesso non vi possiamo dare gli estremi, ma è facilmente reperibile su internet, dove si dimostra che negli Stati Uniti, in Canada e in moltissimi paesi europei sono sorti negli ultimi anni nuclei selvatici di visoni, che sono in realtà originati, diciamo così, da alcuni individui di visoni che sono riusciti a fuggire da allevamenti di animali da pelliccia, o sono stati liberati da questi allevamenti, e che quindi però si sono tranquillamente riadattati all'ambiente selvatico e si sono rinselvatichiti. Quindi è proprio falso dire che non esiste una possibilità di sopravvivenza per questi animali. Certo, poi ovviamente tutto dipende anche dall'ambiente in cui vengono liberati, dalla vicinanza o no di corsi d'acqua e via dicendo, esistono numerose variabili, però dire di per sé che questi animali non possono essere non possono adattarsi in natura, e quindi il sillogismo è chi li libera in realtà li uccide, è una cosa proprio falsa tecnicamente. Dopodiché c'è anche una successiva valutazione da fare, che forse è vero che questi animali una volta liberati sono destinati a morire, ma ammesso e non concesso che sia così, da una parte c'è la possibilità che muoiano tutti liberi, dall'altra c'è la sicurezza matematica che muoiono tutti avvelenati e poi scoiati all'interno di un allevamento, e che soprattutto con la loro morte gli allevatori facciano dei soldi, e quindi ottengano delle chiavi economici, e con quei soldi a loro volta possano nuovamente investire nel loro allevamento, il che vuol dire nuovi visoni fatti nascere, nuovi visoni tenuti in cattività, uccisi e via dicendo. Va bene, quindi così le critiche dell'EMPA le rispediamo al mittente, così dedicato a tutti i visoni che sono stati volevi dire qualche cosa? Dedicato a tutti i visoni che sono stati liberati, mettiamo una canzone. Yeah. Ok, allora torniamo in diretta. Sì, diamo degli aggiornamenti, non ricordandoci se vi abbiamo già dato questo aggiornamento la settimana scorsa, ve lo ridiamo adesso. Non so se vi ricordate il caso del il laboratorio dove venivano detenuti diversi cani beagle e conigli che appunto servivano per il laboratorio di vivisezione in Brasile, in particolare l'istituto São Roque, Royal in São Roque, dove erano stati liberati a seguito di un'azione di molteplici attivisti durante una manifestazione, erano stati liberati moltissimi esemplari. Dopo quel fatto c'è stato un movimento di opposizione molto forte al laboratorio di vivisezione, e la notizia recente è che l'istituto Royal in São Roque ha dichiarato di sospendere l'attività. Oltre a questo aggiornamento, sempre un altro aggiornamento positivo preso dal sito di Direct Action riguarda il caso di due attivisti per i diritti animali statunitensi, Kevin Johnson e Tyler Lang, che furono arrestati in agosto 2013 per presunto possesso di adesso non c'ho la traduzione specifica, però possesso di materiale di danneggiamento tipo tronchesi, non lo so, ecco, una cosa del genere dovrebbe essere la traduzione. E in ogni modo recentemente, dopo 3 mesi di prigione, uno dei due, Tyler, fu è stato rilasciato, mentre l'altro purtroppo rimane ancora in carcere in attesa di processo. Ok, e poi vi andiamo a leggere qualche appuntamento. Vi ricordiamo che il 17 novembre a Malpensa, vicino Milano, ci sarà una mobilitazione contro la vivisezione e il presidio all'aeroporto ancora della campagna internazionale di pressione Gateway to Hell, e questa volta contro Air France ancora una volta. Non vi leggo tutto quanto il comunicato perché è lungo, ma lo trovate su, come al solito, su www.informa-azione.info. E poi ci sarà un altro presidio davanti alla sede di Arlan a Bresso, sempre vicino Milano, Monza, Brianza, insomma è tutta una grande metropoli che va da Milano fino a Brescia. Comunque Monza, Brianza, il 22 novembre dalle ore 15, presidio davanti alla sede di Arlan in via Meucci 8. Liberazione animale, liberazione da ogni forma di oppressione, non tolleriamo nessun tipo di attitudine o comportamento sessista, fascista, omofobico, razzista o transfobico. Collettivo La Lepre per la liberazione animale, umana e della terra. Potete trovare approfondimenti e informazioni sul sito lalepre.noblogs.org e anche su gatewaytohell.net. E allora credo che per questa sera, a quest'ora di solito cominciavamo, oggi a quest'ora finiamo perché siamo nel nuovo orario, e quindi niente. Ma perché cambia d'allora? Sì. Sì. Cioè, l'ora solare, quello è il punto. Vabbè, diciamo i nostri contatti, sito. E allora il nostro sito è radiopossum.noblogs.org. L'email. La gazzaladra @inventati.org. Va bene, tu vuoi dire qualche cosa? Niente di particolare. Sei rimasto basito. Ormai me lo fate dire sempre a me perché ho questa voce da speaker, così. Bravo. Come al solito, un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale, siano essi umani o non umani. Ciao. Ciao. Saluta. Ciao.